ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo primo. L'estrazione del lotto. Mezzogiorno, il sole penetrò nella piazzetta dei banchi nuovi, allargandosi dalla litografia Cardone alla farmacia K, e di là si venne allungando, risalendo tutta la strada di Santa Chiara, dando un'insolita gaiezza di luce a quella via che conserva sempre, anche nelle ore di maggior movimento, un gelido aspetto fra claustrale e scolastico. Ma il gran movimento mattinale di via Santa Chiara, delle persone che scendono dai quartieri settentrionali della città, Avvocata, Stella, San Carlo all'Arena, San Lorenzo, e se ne vanno ai quartieri bassi di Porto, Pendino e Mercato, o viceversa, dopo il mezzogiorno andava lentamente decrescendo. L'andirivieni delle carrozze, dei carri, dei venditori ambulanti cessava. Era un continuo scantonare per il chiostro di Santa Chiara, per il vicolo Foglia, verso la viuzza di Mezzocannone, verso il Gesù Nuovo, verso San Giovanni Maggiore. Presto la gaiezza del sole illuminò una via oramai solitaria. I mercanti del lato destro di via Santa Chiara, poiché il lato sinistro ha solo l'alta, chiusa, bruna muraglia del convento delle Clarisse, mercanti di vecchi mobili polverosi, di meschini e poveretti mobili nuovi, mercanti di stampe colorate e di vivacissime oleografie, mercanti di santi di legno, di santi di stucco, pranzavano, nel fondo delle loro botteghe oscure, sopra un cantuccio di tovaglia macchiata di vino, tenendo a fianco del largo piatto di maccheroni la caraffa di vetro verdastro piena di vinello di Marano e chiusa da una foglia di vite accartocciata. I facchini dei mercanti, seduti per terra sulla soglia della bottega, addentavano lungamente una pagnotta di pane, spartita in due, contenente qualche companatico a sprigno, e l'odore acuto e grasso del molto pomodoro che condiva tutti quei maccheroni, da un capo all'altro della strada, si univa a quell'odore acuto di aceto aspro e di grossolane spezierie. Da qualche fruttivendolo che ancora passava portando sul capo una cesta di fichi quasi vuota, o spingendosi innanzi un carrettino le cui ceste contenevano dei fondi di prugne violette, di pesche duracine tutte maculate, i bottegai, i commessi, i facchini, con le labbra ancora rosse di pomodoro o lucide di strutto, contrattavano due soldi di frutta per finire il proprio pranzo. Due operai, innanzi alla litografia martello, le cui piccole macchine da biglietti di visita si erano chetate, affettavano gravemente un popone giallastro, mentre sulla soglia di un portoncino due sartini aspettavano chiacchierando che passasse il venditore di pizza, la schiacciata coperta di pomodoro, di aglio e di origano, cotta al forno e venduta a 3 centesimi, a un soldo, a 2 soldi il pezzo. Il pizzaiolo infatti passò, ma portava sotto il braccio la tavoletta di legno tutta unta di olio, senza neppure un pezzetto di pizza. Aveva venduto tutto e se ne andava a mangiare egli stesso, giù, nel quartiere di Porto, dove era la sua pizzeria. Le due sartine deluse si consigliarono fra loro. Una di queste, bionda, con un'aureola d'oro intorno al delicato viso bianco, si mosse, con quel passo ondulante che mette come una nota orientale nella seduzione muliebre napoletana, e risalendo la via di Santa Chiara, chinando il capo per non farsi ferire in faccia dal sole, entrò nel vicolo dell'impresa, dirigendosi verso la negra bottega del vinaio che fa anche l'oste, quasi dirimpetto al palazzo dell'impresa. Andava a comprare un po' di roba da mangiare per sé e per la sua compagna. Anche il vicolo dell'impresa si era fatto deserto dopo il mezzogiorno, in cui tutti rientrano nelle case e nelle bottegucce per pranzare, in cui il caldo estivo cresce e la controra, il periodo della giornata napoletana che equivale alla siesta spagnola, comincia col cibo, col riposo, col sonno delle persone stanche. La sartina, un po' intimidita dall'oscurità della cantina, donde un fiato acido di vino usciva, si era fermata sulla soglia, ammiccando, e guardava in terra prima di entrare, sentendo come un pericolo di botola aperta, di sotterraneo dalla negra bocca schiusa. Ma il garzone del cantiniere si avanzò verso lei per servirla. «Dammi qualcosa da mangiare col pane», disse ella, dondolandosi un poco. «Pesce fritto? No». «Un po' di baccalà con la salsa?» «No, no», disse ella disgustata. «Una zuppa di trippa?» «No, no». «E che volete allora?» domandò il garzone un po' infastidito. «Vorrei 3 soldi di carne. La mangeremo col pane, Nannina e io», disse ella con una graziosa smorfia di golosità. «Non cuciniamo carne oggi, è sabato. Solo la trippa, per chi non ci crede, al sabato». «E dammi questo baccalà», mormorò ella reprimendo un sospiro. Ora guardava curiosamente nel cortile dell'impresa, mentre il garzone era scomparso nelle profondità nere della cantina a prendere il baccalà. Un po' di sole, penetrando dall'alto, imbiondiva quel cortile e ogni tanto qualche ombra femminile o maschile lo attraversava. Antonetta, la sartina, guardava sempre mentre canticchiava sottovoce una nenia popolare, dondolandosi un poco. «Ecco il baccalà», disse il garzone tornando. Lo aveva messo in un piattello. Erano 4 grossi pezzi che si disfacevano a faldette in un sugo rossastro e fortemente punteggiato di pepe. Il sugo, ondeggiando, lasciava delle tracce gialle di olio sulla cornice del piattello grigio. «Ed ecco i 3 soldi», mormorò Antonetta cavandoli dalla tasca, ma rimaneva col piatto in mano guardando il baccalà che si sfaldava nella broda. «Se pigliassi un terno», disse mentre si avviava tenendo delicatamente il piattello, «vorrei cavarmi la voglia di mangiare carne ogni giorno». «Carne e maccheroni», ribatté ridendo il garzone. «Già, maccheroni e carne», gridò trionfalmente la sartina con gli occhi sempre fissi sul piattello per non far cadere il sugo. «Mattina e sera», strillò dalla soglia il garzone. «Mattina e sera», strillò Antonetta. «Vi dovete raccomandare a quel ragazzo», urlò allegramente il garzone del cantiniere, accennando con gli occhi al cortile dell'impresa. «Torno più tardi», disse dall'angolo della strada la sartina. «Ti porto il piatto». Di nuovo il vicolo dell'impresa rimase deserto per molto tempo. Pure ogni tanto, come l'ora si avanzava, qualche persona scantonava da via Santa Chiara o da Mezzocannone e veniva a ficcarsi nel portone dell'impresa. Alcuni con aria guardinga, altri fingendo la indifferenza. Le 4 si approssimavano e il cortile dell'impresa si riempiva di gente. In quel centinaio di metri di spazio, una folla popolana si infittiva, chiacchierando vivacemente o aspettando in silenzio, rassegnatamente, guardando lassù al primo piano, la terrazzina coperta dove si doveva fare l'estrazione. Ma tutto era chiuso lassù, anche le imposte di legno, dietro i cristalli del grande balcone. La folla era fatta quasi tutta di gente povera. Ciabattini che avevano chiuso il banchetto nello stambugio che abitavano. Avevano arrotolato il grembiule di pelle intorno alla cintura e in maniche di camicia col berretto sugli occhi rimuginavano nella mente i numeri giocati con un impercettibile movimento delle labbra. Servitori a spasso che invece di cercar padrone consumavano le ultime lire del soprabito d'inverno impegnato sognando il terno che di servitor li facesse diventare padroni, mentre una contrazione di impazienza torceva loro il volto smorto dove la barba non più rasa cresceva ineguagliabilmente. Erano cocchieri da nolo che avevano lasciata la carrozza affidata al compare, al fratello, al figliuolo e attendevano pazientemente con le mani in tasca con la flemma del cocchiere che è abituato ad aspettare delle ore il passeggero. Erano sensali di stanze mobiliate, sensali di serve che nell'estate, partiti forestieri, partiti gli studenti, languivano seduti sulle loro sedie, sotto la loro tabella che è tutta la loro bottega, agli angoli dei vicoli di San Sepolcro, Taverna Penta, Trinità degli Spagnoli, e avendo giocato qualche soldino, sottratto al cibo quotidiano, disoccupati, oziosi, venivano a udir l'estrazione del lotto. Erano braccianti delle umili arti napoletane che, lasciato il fondaco, l'opificio, la bottega, abbandonato il duro e mal retribuito lavoro, stringendo nel taschino dello sdrucito panciotto la bolletta di 5 soldi o il fascetto delle bollette di gioco piccolo, erano venuti a palpitare innanzi a quel sogno che poteva diventare una realtà. Erano persone anche più infelici, cioè tutti quelli che a Napoli non vivono neppure alla giornata, ma ad ore, tentando 1000 lavori, buoni a tutto e incapaci, per mala fortuna, di trovare un lavoro sicuro e remuneratore. Infelici senza casa, senza ricovero, così vergognosamente laceri e sporchi da fare schifo, avendo rinunziato al pane per quella giornata, per giocare un biglietto sulla faccia dei quali si leggeva la doppia impronta del digiuno e dell'estremo avvilimento. Tra la folla anche qualche donna si distingueva, donne sciatte, senza età, come senza bellezza, serve senza servizio, mogli di giocatori accaniti, giocatrici esse stesse, operaie licenziati e fra tutte il volto pallido e attraente di Carmela, quella seduta sul macigno, volto sfiorito, dai grandi occhi stanchi e addolorati. Più tardi, come maggiormente si appressava l'ora dell'estrazione e più il chiasso cresceva, fra le poche facce smorte muliebri e i laceri vestiti di percalla scolorita a furia di troppe lavature, una assai diversa figura di donna apparve. Era una popolana alta e robusta, dal viso bruno fortemente colorito, dai capelli castani tirati su, pettinati con molta cura e la cui frangetta, sulla breve fronte, aveva anche un'ombra di cipria. I pesanti orecchini di perle scaramazze, rotondi, bianco-verdastri, le tiravano le orecchie, tanto che aveva dovuto assicurarli sopra l'orecchio con un cordoncino di seta nera, temendo che dovessero spezzarle il lobo. Una collana d'oro, con un grosso medaglione d'oro, posava sul giubbetto di mussola bianca, tutto ricami e gaie di merletto. Ella sollevava ogni tanto sulle spalle uno scialle trasparente di crespo di seta nero e allora mostrava le mani, ricche di grossi anelli d'oro sino alla metà della seconda falange. L'occhio era serio e tranquillo, con una lieve aria di quietissima audacia, la bocca composta a severità. Ma nell'attraversare la folla, nell'andare a mettersi sul terzo gradino della scala per vedere e udire meglio, ella conservava quella inclinazione della testa, speciale delle popolane napoletane, un po' civettuola, un po' mistica. Conservava quella ondulazione della persona così seducente sotto lo scialle che le borghesi napoletane perdono subito nel vestito alla moda francese. Pure, malgrado la simpatia naturale che ispirava quella figura femminile, al suo passaggio vi fu un mormorio quasi ostile e come un movimento di repulsione tra la folla. Ella guardò la folla 2 o 3 volte serenamente, anzi non senza fierezza. Le voci tacquero. Le palpebre della donna batterono 2 o 3 volte come per orgoglio appagato. Ma finalmente su tutte le altre, su Carmela dal volto sfiorito e da grandi occhi dolorosi, su Donna Concetta dalle dita inanellate e dalla frangetta incipriata, Concetta, la bella, robusta e ricca usuraia, sorella di Donna Caterina, sorella della tenitrice di Gioco Piccolo, sopra la folla del cortile, dell'androne, della via, una figura di donna emergeva, attirava almeno uno sguardo della gente raccolta. Era la donna al primo piano del palazzo dell'impresa, seduta dietro la ringhiera di un balconcino. Seduta di fianco, si vedeva il suo profilo chinarsi e sollevarsi ogni tanto sul lucido ingranaggio d'acciaio di una macchina da cucire Singer, mentre il piede batteva metodicamente sul pedale di ferro che si abbassava e si alzava con moto uniforme. Fra il brusio delle voci e i dialoghi da un capo all'altro del cortile e lo stropiccio dei piedi, si perdeva il trillo sordo della macchina da cucire. Ma sul fondo scuriccio del balcone la figura della cucitrice si disegnava tutta di profilo con le mani che portavano il pezzo di tela bianca sotto l'ago saliente e discendente della macchina, col piede che piegava il pedale instancabilmente, con la testa che si alzava e si abbassava sul lavoro senza vivacità ma senza stanchezza continuamente. Di profilo si vedeva una guancia delicata, delicatamente rosea, e una grossa treccia castana modestamente ravviata e stretta sulla nuca. Si vedeva l'angolo di una bocca fine e l'ombra che le lunghe ciglia abbassate gittavano sull'alto delle guance. La giovane cucitrice, da un'ora che la folla si addensava nel cortile, non aveva guardato che un paio di volte giù, gittandovi una breve occhiata indifferente e riabbassando subito la testa sull'ingranaggio lucido della macchina, trasportando lentamente con le mani il pezzo di tela perché la cucitura venisse dritta, dritta. Nulla la distraeva dal suo lavoro, né le voci, né le vive esclamazioni, né il calpestio crescente della folla. Ella non aveva guardato mai sul terrazzino coperto, dove si sarebbe proclamata l'estrazione fra poco. La gente la guardava di basso, la delicata e infaticabile cucitrice di bianco, ma ella proseguiva quietamente nel suo lavoro, come se neppure un eco di quella gran passione fra segreta e palese arrivasse sino a lei. Ella sembrava così lontana, così schiva, così assorta in un mondo assolutamente staccato, diverso, che la fantasia poteva supporla più un'immagine che una realtà, più una figura ideale che una persona vivente. Ma ad un tratto, un lungo grido di soddisfazione uscì dal petto della folla, variato in tutti i toni, saliente alle note più acute e scendente alle note più gravi. Il grande balcone della terrazza si era schiuso. La gente che aspettava nella via cercò di penetrare nell'androne. Quella che era nell'androne si accalcò nel cortile. Vi fu come un serramento, mentre tutte le facce si levavano prese da un'ardente curiosità, prese da un'angoscia ardente. Un grande silenzio. Silenzio universale, di aspettazione, di stupore. Sul terrazzino, due uscieri del Regio Lotto avevano collocato un lungo e stretto tavolino coperto di un tappeto verde. E dietro il tavolino tre seggioloni, perché vi sedessero le tre autorità. Un consigliere di prefettura, il direttore del Lotto a Napoli e un rappresentante del municipio. Sopra un altro piccolo tavolino fu collocata l'urna per i 90 numeri. E grande l'urna, tutta fatta di una rete metallica trasparente a forma di limone, con certe strisce di ottone che vanno da un capo all'altro, cingendola come i circoli del meridiano circondano la terra. Sottili strisce luccicanti che ne assicurano la forza senza impedirle la perfetta trasparenza. L'urna è sospesa in aria fra due pioli di ottone e presso un piolo c'è un manubrio, anche metallico, che, voltato, fa rapidamente virare sul suo asse tutta l'urna. I due uscieri che avevano portato tutto questo materiale fuori il terrazzino erano vecchi, un po' curvi, come sonnacchiosi. Anche le tre autorità, in soprabito e cappello a cilindro, sembravano annoiate e sonnolente, sedendosi dietro il tavolino. Così pure il consigliere di prefettura dai mustacchi tinti di un nero fortissimo che pareva avessero stinto in bruno, sul bruno volto lucido e assonnato. Così un consigliere comunale che era un giovanotto dalla barbetta scura. Questa gente si muoveva lentamente, con una misura di movimenti, con una precisione di automi, tanto che un popolano dalla folla gridò «Andiamo! Andiamo!» Di nuovo silenzio. Ma vi fu un grande ondeggiamento di emozione quando comparve sulla terrazzina il fanciulletto che doveva estrarre dall'urna i numeri dell'estrazione. Era un fanciulletto vestito della bigia uniforme dell'albergo dei poveri, un povero fanciulletto del serraglio, come i napoletani chiamano l'ospizio di quelle creature abbandonate, un povero serraiuolo senza madre e senza padre, o figliuolo di genitori che, per miseria o per crudeltà, avevano abbandonato la loro prole. Il fanciulletto, aiutato da uno degli uscieri, indossò, sull'uniforme da serraiuolo, una tunica di lana bianca. Un berretto bianco anche di lana gli fu messo sulla testa, perché la leggenda del Lotto vuole che il piccolo innocente porti la veste bianca dell'innocenza. E lestamente salì sopra uno sgabello per trovarsi all'altezza dell'urna. Di sotto la folla tumultuava bel figliuolo, che tu possa essere benedetto! Mi raccomando a te e a San Giuseppe! La Madonna ti benedica le mani! Benedetto, benedetto, santo e vecchio, santo e vecchio!» Tutti gli dicevano qualche cosa, un augurio, una benedizione, un desiderio, un'invocazione pietosa, una preghiera. Il bambino taceva, guardando con la manina appoggiata sulla rete metallica dell'urna. E un po' discosto, Appoggiato allo stipite del balcone, v'era un altro bambinetto del serraglio, serio serio, malgrado le rosee guance e i biondi capelli tagliati sulla fronte. Era il fanciulletto che doveva estrarre i numeri il sabato prossimo e veniva là per imparare, per assuefarsi alla manovra delle estrazioni e ai gridi della folla. Ma di lui nessuno si curava. Era quello vestito di bianco, quello di quel giorno a cui si rivolgevano le mille esclamazioni della gente. Era la piccola anima innocente bianco vestita che faceva sorridere di tenerezza, che faceva venire le lacrime agli occhi a quella folla di esseri tormentati e speranzosi solo nella fortuna. Alcune donne avevano sollevato nelle braccia i propri fanciullini e li tendevano verso il piccolo serraiuolo. E le voci tenere, appassionate, straziate continuavano. Fare un piccolo San Giovanni, pare. Che tu possa trovare sempre grazia se mi fai fare questa grazia. Core di mamma, quanto è caro! Subito vi fu una diversione. Uno degli uscieri prendeva il numero da mettere nell'urna, lo mostrava spiegato al popolo, annunziandolo a voce chiara, lo passava alle tre autorità che vi gettavano sopra un'occhiata distratta. Uno dei tre, il consigliere di prefettura, chiudeva il numero in una scatoletta rotonda. Il secondo usciere lo passava al fanciulletto bianco vestito che lo buttava subito nell'urna dalla piccola bocca di metallo aperta. E a ogni numero che si annunziava vi erano esclamazioni, strilli, sogghigni, risate. Ad ogni numero il popolo applicava la sua spiegazione, ricavata dal libro dei sogni o dalla smorfia o da quella leggenda popolare che si propaga senza libri, senza figurine. Ed erano scoppi di risa, erano grassi scherzi, erano interiezioni di paura o di speranza, il tutto accompagnato da un clamore sordo, come se fosse il coro in minore di quella tempesta. Due, la bambina, la lettera, fammi arrivare questa lettera, signore. Cinque, la mano, in faccia a chi mi vuol male. Otto, Madonna, la Madonna, la Madonna. I cabalisti, quelli, non parlavano. Non guardavano neppure i giri dell'urna. Per essi non esisteva né il bimbo innocente, né il senso dei numeri, né il giro lento vivace della grande urna metallica. Per essi esisteva solo la cabala. La cabala oscura e pur limpidissima. La gran fatalità dominante, imperante, che sa tutto, che può tutto e che tutto fa, senza che nessun potere umano, divino, vi si possa opporre. Essi soli tacevano, pensosi, concentrati, anzi disdegnosi di quella forte gazzarra popolare, assorti in un mondo spirituale, mistico, aspettando con una profonda sicurezza. 13. Le candele, il candelotto, la torcia, smorziamola questa torcia, smorziamo, smorziamo, rombava il coro. 22. Il pazzo, il pazzarello, come te, come me. Il popolo si sovreccitava. Imperturbabili sul terrazzino, le autorità, gli uscieri, il fanciulletto vestito di bianco, continuavano la loro opera, come se tutto quel tumulto di gente non arrivasse alle loro orecchie. Solo l'altro bimbo, nuovo a quello stravagante spettacolo, guardava giù dalla ringhiera, stupito, pallido, con le rosse labbrucce gonfie, come se volesse piangere. Piccola anima inconscia e smarrita fra il turbine della profonda passione umana. L'operazione sul terrazzino procedeva con la massima calma. A ogni nuova decina di numeri messi nell'urna, l'usciere la faceva girare più a lungo, facendo ballare e saltellare le pallottoline allegramente fra la trasparente rete di metallo. Non si scambiava una parola lassù, non un sorriso. La febbre restava all'altezza delle persone nel cortile, non saliva al primo piano. 10! Gridò l'usciere, dichiarando il numero estratto e mettendolo subito nella prima casella. Mormorio e agitazione fra il popolo. Tutti coloro che avevano sperato nel primo estratto erano delusi. Nuova scossa di campanello. Il bimbo immerse per la seconda volta la manina delicata nell'urna. 2! Gridò l'usciere, dichiarando il numero estratto e mettendolo nella seconda casella. Al crescente mormorio qualche bestemmia soffocata si aggiunse. Tutti quelli che avevano giocato il secondo estratto erano delusi. Tutti quelli che avevano sperato di prendere quattro numeri erano delusi. Tutti quelli che avevano giocato un grosso terno secco cominciavano a temere fortemente la delusione. Tanto che quando per la terza volta la manina del fanciulletto penetrò nell'urna, qualcuno gridò angosciosamente: «Cerca bene, scegli bene, bambino!» 84. gridò l'usciere, dichiarando il numero e collocandolo nella terza casella. Qui scoppiò il grande urlo di indignazione, fatto di bestemmie, di lamenti, di esclamazioni colleriche e dolorose. Questo terzo numero cattivo era decisivo per l'estrazione e per i giocatori. Con l'84 erano delusi già tutti quelli che avevano giocato il primo, il secondo e il terzo estratto. Erano delusi tutti quelli che avevano giocato la quintina, la quaterna, il terno secco, speranza e amore del popolo napoletano, speranza e desiderio di tutti i giocatori, da quelli accaniti a quelli che giocano una volta sola per caso. Il terno, che è la parola fondamentale di tutti quei desideri, di tutti quei bisogni, di tutte quelle necessità, di tutte quelle miserie. Un coro di maledizioni si levava, di giù, contro la mala fortuna, contro la mala sorte, contro il lotto e contro chi ci crede, contro il governo, contro quello sciagurato ragazzo che aveva la mano così disgraziata. «Serraiuolo, serraiuolo!» gridavano da basso per insultarlo, mostrandogli il pugno. Dal terzo al quarto numero passarono 2 o 3 minuti. Ogni settimana accadeva così. Il terzo numero era l'espressione paurosa della infinita delusione popolare. 75, dichiarò con voce più fiacca l'usciere, mettendo il numero estratto nella quarta casella. Tra le voci rose che non si calmavano, qualche fischio risuonò vendicativo. Le ingiurie piovevano sul capo del bimbo, ma le maggiori imprecazioni erano contro il lotto, dove non si può vincere mai. Mai, dove tutto è combinato perché non si minca mai, mai, specialmente per la povera gente. 43, finì di proclamare l'usciere, collocando il quinto ed ultimo numero. E un ultimo soffio di collera fra il popolo, nient'altro. In un momento, dal terrazzino scomparve tutta la fredda macchina del lotto. Sparvero i 2 bimbi, le 3 autorità... l'urna con gli 85 numeri e il suo piedistallo, sparvero tavolini, seggioloni, uscieri, si chiusero i cristalli e le imposte del grande balcone in un momento. Sola, ritta, accosto alla balaustra, rimase la crudele tabella con i suoi 5 numeri, quelli, la grande fatalità, la grande delusione. Alle 5:30 il cortile dell'impresa era perfettamente vuoto e silenzioso. Non vi entrava più nessuno, neanche per guardare quella solitaria tabella dei 5 numeri estratti. I 5 numeri erano già stati affissi a tutti i botteghini di lotto di Napoli e innanzi a ognuno, per tutta la città, vi era un gruppo di gente ferma. Nessuno entrava più nel cortile dell'impresa. La folla sarebbe ritornata solo fra 7 giorni. Allora uno scalpiccio si fece udire. Era un usciere del lotto che si menava per mano i 2 bambini dell'albergo dei poveri, quello che aveva estratto i numeri e quello che li doveva estrarre il sabato 21. L'usciere li riportava all'ospizio, dove avrebbe consegnato le 20 lire di pagamento settimanale che fa il regio lotto al bimbo che estrae i numeri. I 2 fanciulletti sgambettavano dietro all'usciere, cinguettando allegramente. La cucitrice di bianco, che lavorava la sua macchina, levò il capo e sorrise loro. Poi ricominciò a battere col piede sul pedale e a condurre il pezzo di tela dritto sotto l'ago. Seguitò quietamente, instancabilmente, figura umile e pura del lavoro. Teresa Saponangelo ha letto Il paese di Cuccagna di Matilde Serao, a cura di Fabiana Carobolante con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.